siamo in fondo alla classifica, che per tanti anni non ci siamo stati, allora facciamo il bene del Napoli, non facciamo il bene dei giochini, perché di chi è la colpa? Dopo alla fine vediamo di chi è la colpa. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sai che si sono affidati al Gennaro sbagliato, forse quando non sa Gennaro più che Gennaro. Bisogna andarci tutti quanti insieme, stiamo commettendo gli errori, prendiamo dei gol assurdi, però ti saluto e buon lavoro. Come si trova Napoli, Rino? Bene, è una squadra che sta attraversando un momento negativo e penso che ne usciremo. Il tapiro porta bene, se lo ricordi. Speriamo. Napoli che vince sul Perugia 2-0 nel primo tempo, la doppietta sul calcio di rigore di Insigne. Napoli che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Ci voleva la vittoria, era parecchio che si vinceva in casa. Sì, beh, al di là del gol sono stato sempre sereno e sto continuando a lavorare grazie al mister che dal primo giorno che è venuto mi ha sempre sostenuto e io cerco di ricambiare la fiducia in campo. L'altro giorno dopo la partita ho detto che abbiamo toccato il fondo, non ho detto che il signor Ancelotti ha toccato, e la colpa è stata del signor Ancelotti. Calcisticamente Ancelotti per me è stato un padre. Ho sempre detto dal primo giorno che abbiamo cambiato metodologia di lavoro, facciamo un lavoro diverso, giochiamo in una maniera diversa, e quando dico una squadra pensante non ho offeso nessuno, una squadra pensante perché giochiamo di reparto, Ancelotti non giocava di reparto, andiamo alla ricerca di altre cose, invece voi che scrivete che io ho massacrato Ancelotti, che è la colpa delle partite che stiamo perdendo di Ancelotti. Io non ho detto questo. Molto bene, Claudia Schiattone, Gianmarco Fernato, per la cronaca Conte ha avuto il suo primo acquisto, Spinazzola è andato in porto, già presentati, foto con le sciarpe, tutte queste cose qui, Spinazzola all'Inter, Politano alla Roma, Inter che ha formalizzato a quanto pare un'offerta per Eriksen, prima offerta 10 milioni al Tottenham, ma Conte dice tanto i soldi non ce li abbiamo. Ma adesso siamo qui per chiarire tutto perché c'è Marco Berinazzo. Ciao Marco. Eccomi, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, dunque davanti al pubblico delle grandi occasioni il Napoli ha battuto il Perugia nel big match e riprende a volare, vale ogni esagerazione. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Ciao. In treno, c'è stato un imprevisto, dovevo essere arrivato, ma il treno ha fatto ritardo. Sì, per vari motivi, quindi speriamo che tenga la linea. Speriamo che tenga la linea con Pierluigi Pardo dalle Ferrovie dello Stato. Boris Sollazzo, buongiorno. Buongiorno, la tua ironia mi ferisce, caro Carlo. Ma d'altra parte tu scrivi, chiedi a Gattuso la salvezza nella tua lettera aperta che tutto il mondo ha letto, e io dico che davanti al pubblico in grandi occasioni il Napoli ha spezzato i reni al Perugia e adesso riprende il suo volo. No, ma infatti ci stiamo allenando con le squadre con cui giocheremo il prossimo anno. Per fortuna. Poi è bello perché gli arbitri poi fanno anche sempre la stessa cosa, su quattro rigori ce ne danno solo due. Sì. Insomma, è tutto in linea con questa stagione. Mi fa sorridere Gattuso che dice non ce l'ho con Ancelotti, poi sto padre calcistico lui vuole ucciderlo perché dice che non si vinceva in casa da un po'. Il povero Ancelotti l'ultima partita l'ha vinta in casa col Genk. Più cerca di scusarsi più fa gaffa, però è anche normale che insomma cerchi di trovare una sua autonomia di fronte a questo convitato di pietra che invece poi va a Liverpool e vince tre partite su quattro mentre lui ne perde tre su quattro. Una spremuta di pessimismo e di grande allegria di Sollazzo. Entusiasmo, entusiasmo e allegria. Sì, no, io non parlo di queste cose, sai. Tu non parli di molto. Pierluigi, guarda come sono. Guarda come sono messo. Allora, Berinazzo ci dirà che il fatturato del Napoli al netto delle plusvalenze di 207,5 milioni, giusto? Sì, credo tra l'altro sia il record, sicuramente il migliore degli ultimi 5 anni, grazie a una cavalcata in Europa, nel senso che Napoli è rimasto sempre in Europa per tanti anni, questo ha fatto crescere molto i ricavi europei, Speriamo. Così fai male, Marco. Ecco, lo so. Questa cavalcata europea, diciamo, rischia di interrompersi proprio quest'anno. Ma cosa stai dicendo? Anche il 10% in più di ricavi, che noi tifosi questo proprio ci fa impazzire, no? Cioè, è una cosa che sì, è un successo che mettiamo nella bacheca. Sì, il problema è che sono cresciuti di più i costi. Il bilancio del Napoli del 2019 non lo conosciamo ancora, perché Napoli è in ritardo anche su quello, insomma, lo deposita non so quando, insomma, con tutti. Vabbè, ma quello, con tutta la calma, Ruiz, Koulibaly e Allan, ecco, insomma, e bisognerà capire quanto sono cresciuti i costi e quindi quanto peserà questa prossima mancata qualificazione in Champions. Quindi per il resto tutto bene. Per il resto tutto bene, per il Napoli, che credo abbia casa tutta a posto. A questo punto, no, c'è una notizia positivissima: che il Napoli ha in cassa, credo ormai, più di 115 o 30 milioni di liquidità. Credo questo record mondiale per quanto riguarda le società di calcio, perlomeno. E bisognerà capire De Laurentiis cosa vuole fare tutti questi soldi. Insomma, qualcosa ha già speso nel mercato di gennaio, di riparazione, ma credo che recupererà ampiamente con le cessioni nella prossima estate, anche perché oggettivamente vanno fatte alcune per fare plusvalenza. E il tema sarà quale sarà il futuro, diciamo, sportivo di un club che comunque fatica non solo sul campo ma anche nei conti a far crescere questo benedetto fatturato. Fa ridere un po' il fatto che il Napoli, ventesimo della classifica dei Lodi, della classifica europea del fatturato, si scontrerà col Barcellona, ecco, che poi ne un calma. Quattro volte in più il fatturato quattro del Napoli. Volte in più. Però Pardo, loro non sanno, poveretti, che tutto si sta apparecchiando per la strada verso la Champions, perché Barcellona in pieno casino, cambia l'allenatore, che se non andava a allenare a Barcellona pascolava le mucche, l'ha detto lui. E si fa male Suarez, è chiaro che quella è la direzione. Quindi è fatta. Fatta, è fatta. Sì, è fatta. Cioè, se tiene il nuovo Di Matteo, guarda, vedrai, vincerà la Champions League come fece Di Matteo col Chelsea. No, allora, io credo che qualsiasi partita sui 180 minuti sia giocabile, anche perché il Napoli comunque ha delle qualità. La Roma qualche anno fa ha eliminato il Barcellona in maniera imprevedibile, imprevista e con pieno merito. Il Napoli ci deve credere, insomma, dai, su, il Napoli ci deve credere, e da questo punto di vista non c'è, secondo me, molta discussione. Non bisogna adesso farsi contagiare dalla negatività totale. La qualificazione di ieri in Coppa Italia, secondo me, è un piccolo passo importante. L'esperienza della Lazio in questi anni, in qualche modo anche del Napoli, ma soprattutto della Lazio, dimostra che la Coppa Italia è una porta d'accesso, comunque è una backdoor, no? È una porta sul retro, ma comunque dà la possibilità di crescere, di dare soddisfazione ai tifosi, che è la cosa più importante, di crescere a livello di convinzione, di autostima. Quindi non è tutto da buttare via. Certo, la stagione è completamente sbagliata, sbagliata perché ci sono state probabilmente delle sopravvalutazioni, mi ci metto anch'io, anche noi giornalisti probabilmente abbiamo sopravvalutato la campagna acquisti, perché ci sono, secondo me, dei nodi risolti a livello contrattuale che non hanno aiutato tanti giocatori in scadenza di contratto. L'episodio delle multe, non mi stancherò mai di dirlo, mi sembra un'ingenuità incredibile per un club che in questi anni invece era stato sempre molto lucido e molto, molto attento. Secondo me la vicenda delle multe è incredibile, non perché non si dovesse dare la multa, bisognava darla, ma bisognava trovare una quadra subito. Non è una cosa che si può trascinare per settimane, e se ci fate caso è proprio da lì, è da dopo quella partita che il Napoli è entrato in una crisi clamorosa, perché insomma fino all'inizio di novembre era in ritardo sulla tabella, ma insomma che era qualcosa, ancora in una condizione... però che qualcosa non funzionasse, si è capito, guarda, fin dai prodromi di questa stagione. A me comunque continuo a ripetere, Boris, sembra la solita vecchia storia da fine ciclo, come mille ne abbiamo viste, quando un ciclo finisce vincente o quasi vincente, il quasi fa una certa differenza, le cadute sono rovinose quanto imprevedibili nelle loro evoluzioni. È inutile che stia a ricordarti il Cappello bis al Milan, il Sacchi bis al Milan, lo stesso United che dopo Ferguson non è che si è ripreso in maniera terrificante. Insomma, sono tante le storie che possiamo raccontare, l'Inter del dopo triplete. Insomma, le cadute qualche volta fanno portano a degli esiti molto più catastrofici di quanto non si possa immaginare. Ma guarda, però era ampiamente prevedibile, nel senso che dopo l'Inter-Napoli della famosa espulsione di Koulibaly, se tu avessi chiesto a qualsiasi tifoso del Napoli se il ciclo era finito e se si doveva vendere per ricomprare, avrebbero detto tutti di sì. Io credo che a De Laurentiis ed Ancelotti abbia gettato fumo negli occhi il doppio 4-1 contro Roma e Inter a fine campionato, con due squadre che erano in grandissima crisi. Quelle sconfitte per 4-1 fecero molto bene a Roma e Inter e fecero molto male al Napoli, che si convinse che si poteva andare avanti ancora un anno con un gruppo che era esausto, perché aveva corso, aveva fatto benissimo e non aveva vinto nulla, e quel non aver vinto nulla gli aveva esaurito ogni tipo di motivazione. Non aveva vinto nulla anche perché forse gli era stato tolto qualcosa immeritatamente, e non essendo campioni non avevano trovato dentro di sé quella forza per ricostruirsi. A me quello che fa specie non è tanto De Laurentiis, che non è un uomo nativo di calcio, quanto Ancelotti, che avendo avuto 6 mesi per capire che doveva rifondare e poteva farlo perché i soldi c'erano, ha preferito invece continuare a puntare su quel gruppo, e quella è stata, diciamo, la rovina. Poi certo è stato anche sfortunato, perché tutti avremmo scommesso su Manolas e Koulibaly. E Manolas, diciamo, sembra il bidone più grande che ci sia stato in cosa che non è chiaramente, però probabilmente ha ragione Bruscolotti quando dice che i due sono troppo simili. E magari se l'aveva capito Bruscolotti, con tutto il grande rispetto per Falefiero, il grande capitano, poteva capirlo anche Ancelotti. E così come forse Lozano non era un giocatore da 42 milioni di euro. A me sembra che De Laurentiis si trovi nella stessa situazione in cui si trovò quando fece quel film super costoso con Jude Law, quindi altro, che si chiama Sky Captain o For Tomorrow, con cui sperava di conquistare l'America, che fu un flop clamoroso. Anche qui fa una campagna acquisti straordinaria, getta il cuore oltre l'ostacolo, fa un progetto diverso da quelli che lui ha fatto normalmente con i Mazzarri, con i Sarri, non lacrime e sangue, ma più pagliette e lustrini, e adesso anche quella follia delle multe che diceva Pierluigi, secondo me nasce da una delusione cocente di un uomo che ha tradito se stesso e deve vedere che aveva avuto ragione finora e che ha avuto torto a credersi grande, insomma. Un grande imprenditore, e lo è sicuramente, Aurelio De Laurentiis, ha una delle sue qualità certamente la lucidità, no? La capacità di essere anche freddo in certi momenti. Io ribadisco, penso che una multa dovesse essere data, perché quel comportamento lì non è un comportamento che può essere accettato. Quindi ha certamente ragione, ha ragione il Napoli nel rivendicare una multa e una punizione esemplare, però bisognava farlo in tempi rapidi, con un dialogo immediato con i calciatori e andare avanti, perché quella situazione lì si è proprio allungata nei tempi e ha creato soltanto avevo proposto, appunto, nel mio piccolo, insomma, che venisse attribuito semplicemente la multa del 5%, che è quella minima che il datore di lavoro può praticamente dedurre direttamente dallo stipendio, accordandosi con i genitori affinché non si rivolgessero loro al collegio arbitrale. Viceversa, se vai oltre il 5% è la società che deve rivolgersi al collegio arbitrale, e i tempi si allungano di 3-4 mesi. Quella soluzione mi sembrava la più equa e pacifica. Dopodiché, chiaramente, io credo che De Laurentiis avesse molta lucidità nei primi anni di gestione del Napoli, anche perché il Napoli era una parte del gruppo Filmauro. Oggi è il Napoli principale. Il gruppo Filmauro, diciamo, senza il Napoli fa 25 milioni, 30 milioni di fatturato. E cioè il gruppo Filmauro, il Napoli nel gruppo Filmauro rappresenta il 90% del fatturato. Quindi quando diventa essenziale e quando non hai forse le risorse, non vuoi impiegare risorse personali per andare a coprire determinati buchi, tutte le scelte diventano più dolorose, e quindi anche le reazioni forse sono meno lucide e logiche di quelle che sarebbero state un tempo. Quindi la situazione è questa, non resta che saltare l'ostacolo Barcellona e fare rotta sulla Champions, Boris, per chi vedrà. In fondo siamo ancora in gara su tre fronti, quindi insomma possiamo fallire ancora su tre fronti e questo ci fa piacere. No, detto questo, un piccolo sprazzo di ottimismo, io lo voglio vedere il Lazio-Napoli, che insomma al di là di Ospina, poi anche quello mi fa ridere, no? Gattuso arriva e dice bisogna puntare su un solo portiere e poi fa turnover anche lui tra i portieri, però dice, al di là dell'orrore di Ospina, se c'era una squadra che meritava di vincere nel Lazio-Napoli era il Napoli, bisogna ripartire da là, bisogna vincere il prima possibile 5-6 partite, perché questa squadra perlomeno comincia a pensare al futuro, perché adesso come adesso stare dalla parte destra della classifica è anche una soglia psicologica difficile da portare avanti, lo si vede, cioè ieri a un certo punto l'esultanza sul rigore parato su Iemmello è stata un'esultanza scomposta, cioè di giocatori divorati dalla paura, e questo bisogna togliersela, perché poi il Napoli non è una squadra da scudetto, ma non è nemmeno una squadra chiaro, ma la situazione presenta, cioè, ha alcuni aspetti in comune con quella del Milan, serve una inversione di tendenza, fare l'inversione di tendenza non è sempre semplicissimo. Grazie Boris, un abbraccio, e su con la vita, mi raccomando, fermiamoci un istante, poi continuiamo a parlare con Marco Berinazzo non solo di Napoli ma di molti altri temi. Ad esempio Conte dice l'Inter non ha i soldi per chiudere come vorrebbe questo mercato. Che monotonia però, questi giornalisti che continuano non sapendo cosa dire, attaccare Gattuso che fa gaffe. Gattuso al Milan l'avete crocifisso, ora qui al Napoli si ricomincia subito. Io lo vorrei di corsa a Firenze a allenare la Viola. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Soldi da spendere non ce ne sono, e allora quando ci sono soldi da spendere ci devono essere le idee. Penso di aver dato delle idee, dovremmo essere bravi a cercare di, tra uscite, entrate, di bilanciare un pochettino tutta la situazione, andare su persone, ecco, che magari hanno già una carriera e sono a fine contratto, dovremmo cercare di fare su dei prestiti, dovremmo cercare di fare questo con molta umiltà, perché sappiamo che comunque c'è un fair play da... Cioè, sfruttiamo i saldi, eventualmente chiediamo un finanziamento. Sì, più o meno è questo il discorso, ma diciamo che è anche un po' più pessimista di quello che dovrebbe essere Conte, nel senso che l'Inter appunto sarà la fame. Sì, probabilmente, ma non so, credo che dovrebbe come dire, confrontarsi anche con quello che è il percorso di crescita che sta facendo la società e che ha anticipato il percorso di crescita sul piano sportivo. Lui è stato chiamato per far crescere la squadra dal punto di vista sportivo, come Marotta, e in realtà come Suning ha tentato di finora di far crescere la squadra dal punto di vista economico. L'Inter nel 2019 ha fatto la sua crescita record, 30% in più di fatturato rispetto all'anno precedente, è salito sopra i 350 milioni. Questo vuol dire che verosimilmente nel giro di 2-3 anni l'Inter supererà i 500 milioni di fatturato, la Juve li supererà quest'anno, e quindi cominciano a intravedere come dire, quel tavolo dei grandi dove ci si siede, da 600-700 milioni in su. Il ristorante dove guardare Conte, esattamente, al ristorante ci sta arrivando, e non con 10 euro insomma, no, ci arriverà. Per adesso non ce li ha, quindi gli servono i saldi e i finanziamenti. Il problema però è che lui non ha, come dire, la somma che vorrebbe spendere la sua testa, ha a disposizione un'altra, capito, somma. Ho capito, però i famosi 100 euro, ora ne ha 50 per continuare su questa 50, metafora. Però Pierluigi, mi sembra che a guardarlo da fuori il percorso sia molto chiaro e siano tutte le tappe siano state rispettate. Magari quest'anno è un pelo avanti dal punto di vista sportivo e vuole sfruttare il vantaggio, però mi sembra che insomma sull'Inter il pessimismo non sia granché autorizzato in questo momento. La sensazione che abbiamo, almeno che io ho da un paio d'anni, cioè che la prossima cosa simile alla Juve, simile in termini di fatturato, quindi poi anche di possibilità di spendere e poi magari anche di vittorie, possa essere l'Inter, cioè che la prima alternativa alla Juve sia diventata l'Inter. È un'idea che abbiamo abbastanza chiara, io ho abbastanza chiara da 2-3 anni, e da quando il Milan ha fatto invece tanta fatica nel suo percorso di crescita dal punto di vista societario. La condizione di come è Napoli è una condizione che conosciamo molto bene, cioè di due società che che hanno fatto secondo me forse addirittura più di quello che le risorse gli potevano consentire di fare. Poi adesso sulla Roma ci potrebbe essere un nuovo progetto. De Laurentiis, che abbiamo parlato un istante fa, fa il record di fatturato, è sicuramente solido, è pochissimo indebitato, però adesso sicuramente deve fare un rinnovamento tecnico. La Lazio è cresciuta, credo sia sui 130 milioni di fatturato, e cresce piano piano di anno in anno con la logica e con l'intelligenza. Ma insomma, l'Inter è la prima alternativa alla Juve dal punto di vista economico, no? Cosa ne pensi, Benignazzo? È cresciuta, si è internazionalizzata, il ruolo di Toir assolutamente ben pagato, ci ha fatto un business pazzesco, beato lui. Di training ha portato, ha traghettato l'Inter in una dimensione internazionale che poi le ha consentito adesso di avere un gruppo enorme alle proprie spalle. Quindi al momento io credo che, se parliamo di medio periodo, i tifosi dell'Inter debbano essere proprio molto totalmente tranquilli, fossero quelli del Milan in queste condizioni. Beh, no, l'Inter l'abbiamo detto, insomma, sottoscrivo quello che ha detto Pierre, è inutile aggiungere, insomma, il percorso è quello, ma dall'arrivo di Suning lo abbiamo sottolineato, il Milan invece si trova in tutt'altra situazione. Sì, ecco, adesso volevo chiederti anche del Milan, sì. Su questa trattativa con Arnaud, che è un bisbiglio di fondo, sì, che si continua a sentire. Però prima, digressione sulla Lazio, Pierluigi ha citato la crescita del fatturato della Lazio, come è messa la Lazio dal punto di vista dei beh, conti, come vedi il percorso, il grafico dell'Aquila che vola altissima, diciamo, che sulla Lazio pende quell'ipoteca che fu fatta alla nascita, no? Con i 25 anni di rateizzazione del debito tributario, che viene considerata da tutti come un grande favore, perché la Lazio non fa lì, la Lazio è acquistata da Lotito. Però anche è vero che Lotito versa circa 6 milioni all'anno all'erario e sta pagando. Sta pagando quella cambiale. Nel frattempo ha costruito un progetto che ha una sua identità tecnica, grazie a Tare, grazie alle sue intuizioni molto chiara. Ha vinto questa gestione, allora, di crescita? La prospettiva di crescita dal punto di vista economico è molto limitata. Nel senso che la Lazio può superare, ha superato i 100 milioni, difficilmente può superare i 150. Per il bacino d'utenza, per tante ragioni, per lo stadio, per comunque un orizzonte commerciale meno ampio della Roma. Quindi diciamo, credo che quella sia la sua dimensione, credo che arrivando con delle intuizioni tecniche può effettivamente ottenere dei risultati sportivi, ma risultati economici maggiori, risultati sportivi, ad esempio la certezza di fare ogni anno la Champions, certo, come possono avere in questa fase Juve e Inter, non ce la potrà mai avere. Diciamo che è vicino al limite. Può fare grandi plusvalenze. Sì. Il volte, devo dire, il comportamento di Lotito, che spesso è stato criticato per la sua, diciamo, poca generosità al momento degli acquisti, qualche volta anche a ragione, ma dal punto di vista delle cessioni è uno dei presidenti invece da questo punto di vista ammirevoli, nel senso che uno di quelli che i giocatori non li vende mai, se li vende, li vende a carissimo prezzo dopo estenuanti trattative e quasi sempre ci becca. È chiaro che Milinkovic-Savic è una plusvalenza enorme, potenzialmente lo poteva essere già in passato, Luis Alberto pure. Immobile è un valore, Immobile ha un po' meno mercato a livello internazionale, se vuoi, questo è anche un po' strano, no? Perché vista la quantità di gol che fa, però anche Immobile sicuramente è un giocatore sul quale trovarsi, dovesse un giorno decidere di fare, monetizzare, farebbe una plusvalenza, ma sappiamo che Lotito queste cose non le fa, nel senso che lui crescerà piano piano e sta crescendo con una piano piano, per modo di dire, perché ormai il livello di crescita negli ultimi mesi si è moltiplicato, quindi sì, sì, però dal punto di vista della gestione è vicino al limite, sì, una gestione sì, che Marco, appunto perché è vicino al limite viene tenuta con i conti in ordine, difficilmente va in rosso, magari ci va qualche anno ma di poco, generalmente fa utili, media 10-15 milioni all'anno, e questi di fatto poi vengono reinvestiti nel club. È anche vero, e questo i detrattori dello titolo sottolineano spesso, che ci sono tutta una serie di società della galassia Lotito che lavorano per la Lazio, che fanno, certo, fatturato con la Lazio, la sicurezza dello stadio, il catering di Formello, insomma altre situazioni, sì, però sì, è legittimo, sì, che all'interno del gruppo si possano creare queste sinergie, a mio avviso. E d'altro canto, appunto, Lotito non ha mai preso un euro di dividendo dal club, questo va detto, così come l'ha detto per De Laurentiis e la sua famiglia, anche se, come dire, De Laurentiis e la famiglia hanno come dire, ottenuto dei riconoscimenti economici come membri del consiglio di amministrazione in questi anni, si più di 20 milioni, praticamente sì, e quindi sono due forme di chiamiamolo mecenatismo, a mio avviso arcaico rispetto a quelle che sono le gestioni moderne di club, ma che sono in qualche modo come dire commisurate a quelle che sono le ambizioni delle due proprietà, magari non proprio commisurate alle ambizioni delle due piazze dei tifosi, della tifoseria, esatto. Però sono commisurate a quelle che sono le prospettive delle due proprietà. Posso chiederti se senti, anche posso proporre giusto per avere calma di chiacchierare, di scavalcare la borsa, scavalchiamo la borsa e di rimanere insieme, anche perché insomma hai una cosa da chiedere a Benignazzo, anche io ne ho diverse. C'è l'unica classifica che alla fine conta, che è quella della Money League di Deloitte. C'è il Milan, c'è la Roma, l'Inter, abbiamo Inter, tanti temi, state con noi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta I miei risparmi, interessi praticamente zero, meno i costi, fa più o meno meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi, più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più, da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità. Per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. DarioRomanoEstensibile.it. Dal 1981 nel settore dell'imballaggio. Bobine di film estensibile di qualsiasi peso, spessore e colore. Qualità, servizio, prezzo. DarioRomanoEstensibile.it. In internet girano informazioni o notizie che ledono la tua reputazione o quella della tua azienda? DigitalEx ha la soluzione. Con il nostro team di avvocati e di informatici lavoriamo per cancellare o modificare contenuti negativi nel web su di te o sulla tua azienda. Vai su digitallex.it. digitallex.it. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. bredaportoni.com. Radio 24 e Il Post ti invitano a un doppio appuntamento nelle concessionarie Renault, dal vivo e in diretta con il pubblico. Dalle 17 alle 18 l'approfondimento giornalistico a cura di Luca Sofri con Spiegato Bene Live, e dalle 18:30 l'attualità senza tabù e senza censure della Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Prossima tappa Modena, il 29 gennaio presso la concessionaria Renault Franciosi. Per partecipare iscriviti subito su lazanzaratour.renault.it. Allora, facciamo così, ricominciamo da quanto Pierluigi Pardo vorrà chiedere al qui presente Marco Bellinazzo, poi andiamo dritti sul Milan. Non c'è ancora Pierluigi Pardo, andiamo dritti sul Milan. Allora, una delle cose di cui si parla di più nel sottobosco, tra cose dette e non dette, una sorta di brusio di fondo, è la trattativa Milan-Arnaud. Marco, come stanno le cose? Beh, questa è una presunta trattativa, perché di trattativa non ce n'è, di cui si parla la scorsa estate, è stata smentita più volte dalla famiglia Arnaud. Io devo fare insomma un tentativo per provare a portare chiarezza per quello che è possibile, per quanto siano complesse queste questioni e appunto i rumors del mercato finanziario che sono ripetutamente riportati poi dai media italiani. Allora, io ho avuto modo questa mattina di parlare sia con i rappresentanti di Iliot che della famiglia Arnaud, e il punto fissato da entrambi è che appunto non c'è una trattativa, che in particolare, e questo Arnaud l'ha detto in più occasioni, la famiglia Arnaud, lo stesso fondo Iliot smentisce di aver dato alcun mandato a una banca d'affari di proporre appunto Iliot di proporre il Milan alla famiglia Arnaud. Quindi in questo senso non c'è nulla di ufficiale, e quindi da questo punto di vista dobbiamo appunto chiarire questo punto. però è altrettanto evidente, lo sappiamo tutti, che il dossier del Milan, sì, insieme a quello della Roma, è in giro. Cioè, si sa che il Milan è in queste condizioni. Infatti, diciamo, che è quella proprietà. Definito questo perimetro dell'ufficialità, di ciò che è ufficiale, c'è anche da dire che, per quello che mi risulta, il dossier Milan, così come quello della Roma, appunto, veniva, è stato verificato, proposto in giro da varie banche d'affari che magari non hanno ricevuto un mandato specifico, ma che fanno questa attività esplorativa, chiedono ai vari loro clienti se un certo, certo, asset può interessare, dopodiché si propongono come intermediari, ovviamente per avere il proprio tornaconto professionale ed economico. Nel caso specifico, quindi, è molto probabile che il dossier Milan sia finito anche sui tavoli della famiglia Arnaud. Il Milan in quanto tale non interessa alla famiglia Arnaud, e quindi, diciamo, l'AC Milan, la società di calcio in quanto società di calcio, perché è una società di calcio che perde 10 milioni al mese, quindi è un problema per chiunque gestirlo. Ovviamente il discorso completamente diverso sarebbe di un Milan con lo stadio e con un distretto multifunzionale che al modello dello Temple Center di Los Angeles possa fungere da nuovo centro di attrattivo dello sport, dell'entertainment, appunto il lusso, della moda. Sappiamo tutti i settori in cui, certo, la famiglia Arnaud è operativa. E allora, diciamo che si è convenuto, o quantomeno l'idea di Arnaud è quella di, magari, di verificare. Aspettiamo, vediamo se c'è, se dentro tutto questo grande pacchetto c'è lo stadio, c'è un distretto, ci sono delle strutture, c'è poi anche la squadra di calcio, allora ci pigliamo tutto il pacchetto. Solo la squadra di calcio non ci interessa. Chiaramente parliamo, diciamo, di nulla di concluso, ripeto, di nessuna trattativa, di un pourparler che può esserci, che a mio avviso, come mio opinione personale, creerebbe una sinergia incredibile e sarebbe conveniente ovviamente per ambe due le parti, e rilancerebbe definitivamente il Milan, ma di questo si tratta. Altre fughe in avanti al momento non trovano alcun riscontro. Alcuna conferma. Tutto chiaro, mi pare, Pierluigi? Tutto chiaro, tutto chiaro. Benignazzo è un'autorità in materia. Di che cosa stiamo parlando? Di che stiamo a parlare, esatto. Molta guida. No, tu gli stavi chiedendo una cosa prima, non so cosa. No, gli stavo chiedendo se anche nel bilancio di quest'anno del Napoli, con il nuovo record, c'è, diciamo, una tendenza al poco indebitamento, addirittura al paradosso, insomma, non essere indebitati è una buona cosa, no? Il bilancio del Napoli è un bilancio, credo, anche quest'anno strasano dal punto di vista economico, però se addirittura c'è il paradosso che forse si potrebbe investire un po' di più. Gli chiedo se vale ancora questa. No, chiarissimo la domanda, e non ti posso rispondere, nel senso che il bilancio del Napoli non è stato ancora depositato. I dati sono stati evidentemente forniti a Deloitte e riguardano soltanto il fatturato. Però a occhio e croce ti posso dire che il Napoli non credo si sia indebitato, non mi risulta in alcun modo, anzi credo che abbia ancora quel record mondiale di liquidità in cassa, quindi intorno ai 100 milioni se non di più, perché credo che comunque abbia chiuso anche quest'anno il giudizio inutile, e quindi da questo punto di vista quelle considerazioni che abbiamo fatto e che ricordavi tu sono ancora valide. E invece a me interessava il dossier che invece è finito sul tavolo di Friedkin, che l'ha letto con attenzione, e lì la trattativa c'è. Allora, per la Roma quando si chiude, come sta? Cioè, fino a 10 giorni fa c'era il closing, la firma da un giorno all'altro, si dava per fatto, eccetera. Qual è la situazione attuale? La situazione è che quella che sarà definita come la chiusura della trattativa in realtà era l'accordo sulle modalità di valutazione del club, e quindi sul prezzo del club, intorno ai 750 milioni, che era lo scoglio principale. Dopodiché è iniziata la cosiddetta due diligence legale, che riguarda appunto la verifica dei bilanci, di tutto quello che consente di validare quel tipo di procedura che è stata scelta e su cui c'è l'accordo. Io credo che si possa arrivare a una conclusione, si prevedeva fine gennaio, ma potrebbe essere la prima parte di febbraio. Al momento non vedi particolari che ho avuto, gli ultimi riscontri che ho avuto, insomma, mi parlano di colloqui continui, insomma, con l'attuale dirigenza, con l'attuale management, che sarà comunque confermato almeno per i primi anni, insomma, perché Friedkin non vuole cambiare. Il tema vero sarà come e quando si arriverà nel mese successivo, cioè entro la fine di marzo, all'ok del Campidoglio sul dossier stadio, perché ci deve essere lì un passaggio che è l'approvazione della convenzione urbanistica, poi si deve andare in regione, grosso modo la Roma, anche la Roma di Friedkin, spera di arrivare entro l'estate a un ok definitivo, che è, fa parte della legittima aspettativa e che come concetto, anche come asset, sta dentro il contratto. Al momento è stato valutato lo stadio circa 60 milioni, sì, che sì, è quanto speso finora per l'attività preliminare. Sì. È chiaro che nel contratto poi che verrà siglato tra Friedkin e Pallotta e i suoi soci, dovrà esserci e sarà previsto anche qualcosa che andrà a remunerare il lavoro fatto da Pallotta, ovviamente quanto speso. Non quanto Pallotta vorrebbe, perché Friedkin giustamente fa notare che poi bisogna trovare un miliardo circa per fare gliel'hanno spiegato a Friedkin come funzionano le cose qui, sì. Lui si sta informando moltissimo e sta già preparando il figlio, usi e costumi locali, però diciamo che Pallotta ha già fatto gran parte del percorso e diciamo sarebbe stato poi un peccato rinunciare a tutto, visto che comunque sono trascorsi 5-6 anni. E ti dirò di più, Pallotta non farà una plusvalenza come Toir, ma sarà una plusvalenza tra i 70 e 80 milioni che però dovrà dividere con gli altri suoi soci. Noi non sappiamo quanti sono tutti gli altri soci, perché la società capogruppo è nel Delaware e lì c'è l'anonimato, sì. Però diciamo che Pallotta e soci fanno circa 70 80 milioni da questa operazione di plusvalenza. Non è come Toir, ma comunque mi sembra un buon affare. Buon poi affare. Se li giocano a poker, sì, secondo questa speciale classifica poi si trovano lì nel Delaware e se li giocano a poker. Il massimo potrebbe farlo De Laurentiis, perché se De Laurentiis vendesse il Napoli in questo momento sarebbe tutta plusvalenza. Sì. Quanto dire. Vale il Napoli oggi? Beh, lo posso dire. No, poi dillo. Diciamo che intorno ai 500 milioni. Presidente De Laurentiis, intorno ai 500 milioni ed è tutto guadagno. Bisogna trovare il compratore. Bisogna trovare il compratore. No, ma poi tanti, vedi che 500 milioni. Sì, pronti l'aspetta. Tu hai, non c'hai 500 milioni, ma come? No, non ce l'ho. Attualmente no. Non c'è neanche 500 milioni. No, però vedi come tutte queste trattative intorno ai club italiani ruotano intorno a una miriade di stadi virtuali. Tu vai a comprare, che ne so, il Tottenham, che non puoi comprarlo perché leggi il rapporto Deloitte, ormai è un club stra super mega miliardario, il più ricco di Londra, è diventato, e tutti, ok, cioè club, la squadra di calcio, caro signor Arnaud, abbiamo tutto a posto, può fare la moda e tutte le altre cose che vuoi, ci sarebbe anche la squadra di calcio da gestire, ma quello non è un problema. Qui invece una miriade di stadi virtuali ti dicono, ah sì, ok, c'è un progetto, quanto hai speso per il progetto, e poi quando va in commissione edilizia, bla bla bla, ed è tutto molto, molto strano, molto curioso, molto divertente, Pierluigi. Sì, questa è l'Italia, insomma, diciamo che usi e costumi. Usi e costumi, abbiamo fatto mille volte questo discorso, non siamo stati secondo me fortunatissimi dal punto di vista del calcio e del ciclo economico, perché se la globalizzazione, l'internazionalizzazione fosse stata compiuta, parlo in generale dell'economia, 20 anni prima, probabilmente i nostri marchi principali sarebbero stati in questo momento quello che invece sono Manchester United, Real Madrid e Barcellona, perché era il periodo in cui dominavamo. Poi ci sono una serie di inefficienze strutturali del nostro paese, di lungaggine, di burocrazie, di lentezze, di mancata certezza del diritto in mille situazioni che non rendono semplicissimo, secondo me, investire purtroppo in Italia. È quello che ci manca. Poi è chiaro che il sistema economico del calcio italiano difficilmente può sostenere le sette sorelle così belle, devo dire, di fine anni 90. Cioè, sarebbe bello riuscire ad avere sette squadre come in quegli anni, che riescono a competere a livello europeo a grandi livelli e al tempo stesso a garantire un campionato tutto sommato equilibrato. Quindi poi alla fine la coperta è corta anche nella distribuzione dei diritti televisivi. O decidi di seguire il modello spagnolo con Barcellona e Real Madrid, che sono chiaramente dotate di un potere con degli introiti incredibili, e allora però a quel punto il campionato rischia di essere poco equilibrato, oppure fai un modello, diciamo, più alla tedesca o all'inglese, quindi più equilibrato, però rischi di togliere competitività alle big, insomma. Sì, la coperta rimane corta. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è il mio amico Stefano Melocchero da Sky, buongiorno. Presente Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Mamma mia, come ti sento. Dichiarare posizione e disponibilità prossimi giorni, dichiarare geolocalizzazione, dichiarare. Questa mattina, se ti riferisci al GUOCO del padel, è andato in scena un Melocchero contro Dario Marcolin, ripeto, Dario Marcolin, in località non prima. Meglio precisata del centro Italia. Risultato finale, scusi? Risultato finale Marcolin 3-7-0, ma ingiusto, risultato cinico e baro come il destino. No, ma perché direi il compagno? No, ma sei a Roma questi giorni, scusa, te la chiudo sì, fino a domani pomeriggio mi sa che lui sta cercando di arrivare, ma sta guidando, no, sta guidando un treno. Sono arrivato. No, ma io volevo approfittare anche del presente di Marco Berinazzo, perché nei prossimi giorni potremmo avere un potremmo avere un clamoroso buco nei palinsesti televisivi, caro Stefano Melocchero. Perché? Perché no, gli australiani sono appena affumicati, siamo vicini all'impraticabilità del campo. Ah, tu dici addirittura, ma non credo, sai perché vi do questi ultimi? Sono in contatto con australiani e ho amici da quelle parti. Allora, la situazione nei giorni scorsi era, ed è, resta, francamente, insomma, molto, molto preoccupante. Però stanotte ha cominciato a piovere, nei giorni prossimi è previsto ancora maltempo e vento, che sono due condizioni che, insomma, il vento porta via un po' di fumo, speriamo, alimenta anche gli incendi, ma poi se piove è meglio, e l'acqua dal cielo purifica l'aria, per cui dovremmo evolvere verso un miglioramento della situazione. No, perché si leggono cronache comunque dal fronte, praticamente. È adesso così, sono in campo i turni di qualificazione, quindi sostanzialmente i peones del tennis, che beati loro, vengono dipinti un po' come dei minatori avvolti dal fumo, il che, ripeto, il disagio è reale, però non ci saranno problemi. Sì, no, abbiamo visto foto di giocatori al cambio di campo con la maschera ossigeno, cioè respirare dalle bombole tra un game e l'altro, per cui sì, è inquietante. Sì, esisterebbe, voi che siete i signori della televisione per molti aspetti, sarebbe possibile in ipotesi la cancellazione di un Australian Open praticamente quando già si è iniziato a giocare? Marco? Parto io dicendoti che secondo me non succederà, perché alla fine riusciranno a giocare lì, hanno anche sul centrale, hanno la possibilità di chiudere il tetto e di far respirare aria pulita dentro, per cui alla fine secondo me i tennisti si sacrificheranno un po' e riusciranno a portarlo avanti, a meno che non intervengano fattori eccezionali. Io credo che poi comunque il vantaggio è che è un evento che si spalma, per quanto riguarda, diciamo, la sua parte principale, su due settimane, quindi alla peggio secondo me si può pensare, se non dovessero esserci le condizioni lunedì per cominciare bene, di cominciare con l'uno con due giorni di ritardo e poi comunque recuperare, no? Come succede negli anni più sfortunati nei tornei che si giocano all'aperto, nei quali piove molto, quindi io credo che il margine ci sia di recupero, e non credo che si arriverà a questo. Rimane, lo diciamo, perché poi noi siamo qui, ci occupiamo di sport e ovviamente, insomma, siamo quindi toccati così marginalmente da questa cosa. Rimane la tragedia, quella è successa in Australia. Vabbè, quello è fuori discussione, quello è fuori discussione, però insomma è una costante, quella degli ultimi anni, quella di comunque atleti, show must go on e tutto quello che volete, i Queen eccetera, però fatti giocare in condizioni davvero limite. Devo dire che ora, al di là del caso australiano, per esempio, anche ieri è arrivata una comunicazione dal comitato che sta organizzando le Olimpiadi di Tokyo, appunto per l'accredito a Sapporo, dove vengono spostate ad esempio maratone e 50 km di marcia, perché è impossibile che vengano corse a Tokyo, quindi si va a 800 km di distanza. E il tema c'è, pensiamo ai mondiali recenti di atletica in Qatar. Prossimi mondiali di calcio, conosciamo bene qual è la si faranno a dicembre. Situazione. E per guardare, una cosa positiva è che spero, insomma, che anche questo incredibile episodio, insomma, che riguarda il tennis, e quindi comunque un momento di grande attenzione mediatica mondiale, faccia riflettere tante persone, compresa magari il premier australiano che dubita dei cambiamenti climatici, sulla delicatezza del momento che stiamo vivendo. Ma anche perché, chiudo con Stefano Melocchero, anche perché in condizioni limite, è chiaro che può essere un discorso un po' cinico, però quello che un grande torneo così potrebbe offrire viene ridotto ai minimi termini. Ma la questione investe l'aspetto agonistico, investe l'aspetto sociale, investe l'aspetto della nostra sensibilità ambientale, è ovvio, però ricordiamoci anche che poi alla fine gli atleti in quanto tali sono considerati mercenari, cioè ricordatevi le Olimpiadi di Pechino e in che condizioni si corse e si gareggiò in molti casi, cioè poi alla fine agli atleti viene sempre chiesto il sacrificio supremo sulla base del fatto che guadagnano un sacco di soldi e credo, temo che andrà a finire così anche in questo caso. Certo che se doveva accadere una roba del genere per sensibilizzarci tutti un po' di più, il fatto che sia successo così e che si possa rientrare nel ragionamento sugli aspetti climatici e su argomenti molto più grandi di noi è sicuramente un fatto tra virgolette insomma, quasi positivo, cioè che comunque nella tragedia enorme sia un'occasione di riflessione quello che sta succedendo in nostro. Certo. Grazie a tutti ragazzi, grazie. Grazie, grazie a Stefano. Grazie Stefano, grazie a Pierluigi Pardo, grazie Marco Bellinazzo, a prestissimo con te. A presto. Claudia Schiattore, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.